Di fronte alla borsa, qualche volta, cara Nicoletta, dobbiamo turarci il naso e quindi lo dobbiamo soffiare. Certo, e metto le mani lì. Anch'io lo faccio. La pancia borbotta. Sed panciam borbottam, non so. Ho un giro visa che ci vuole la terra metrica. E il tema natiche, però mettetevi la mano sul fuoco, sì, sul fuoco, sul cuore, ma sul fuoco non ce la metto, che ve la mettiate. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Bigliettini con gli auguri mi scriverai o bottiglie regalerai. Eh sì, è un tema decisamente molto importante, è un tema attorno al quale c'è sempre grande discussione, spesso anche strumentalizzazione elettorale. È un settore che negli ultimi anni ha visto molti ritocchi, interventi legislativi, l'ultimo intervento nel giugno del 2012, quello dell'ex ministro del welfare Elsa Fornero, che pur tra le tante polemiche e il problema degli esodati ancora aperto, ha messo in sicurezza, almeno questa è la convinzione generale, il sistema pensionistico pubblico italiano. Ma per molti italiani è un tema centrale, perché stanno costruendosi l'assegno di scorta. E oggi, allora, Cuore Denari, parliamo di pensione, un tema caldo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista della salute. La pensione la aspettiamo, ma la temiamo. Ci sono persone che sognano la pensione per potersi dedicare, realizzare anche nuovi progetti, per potersi un po' misurare con nuove sfide, per dare finalmente spazio a quella parte di sé che il lavoro ha costretto e limitato. Altri che pensano la pensione come a un periodo buio, quasi di punizione, di emarginazione, solo all'idea si sentono finiti. Sono coloro che del lavoro hanno fatto la loro unica ragione di vita, forse anche senza rendersene conto. Alla pensione voi ci state pensando? La state già vivendo? La state quasi sfiorando? E che cosa di questo periodo della vita apprezzate e che cosa vi spaventa? 800 24 00 24. Numero verde che potete utilizzare anche per commentare con noi il tema dal punto di vista dei denari. La questione è che le pensioni del futuro saranno tutte contributive e non retributive. Questo significa che l'assegno si formerà dalla mole di contributi che avremo versato e con le incertezze del mercato del lavoro possiamo immaginare che le pensioni pubbliche non saranno stellari. Ecco perché diventa importante costruirsi un risparmio individuale che diventi domani la pensione integrativa, l'assegno privato che si accompagni a quello pubblico. Oggi, lo dicevamo anche nelle anticipazioni, c'è la guida del Sole 24 Ore, che peraltro Nicoletta, così lo salutiamo, è coordinata anche dal nostro amico Marco Lo Conte, che è anche un runner, possiamo dire, runner. Facciamo un po' questi, esatto. Non è che pensa solamente alle pensioni, ai soldi, al denaro, anzi, ma anche al suo benessere, per conservarsi meglio e godersela la pensione, giusto? Perfetto, mi piace. E allora, questa guida del Sole 24 Ore dà una risposta a tutte le vostre domande. E poi, se volete informarvi ancora di più, potete fare un giro a Milano dal 14 al 16 maggio in occasione della Giornata Nazionale della Previdenza. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il professor Alberto Brambilla, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Con un rush finale è arrivato proprio in corner, lo confessiamo. Fatto il runner. Ha corso un po' in metropolitana. Professor Brambilla è coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico della Giornata Nazionale della Previdenza, oltre che ideatore della manifestazione, ed è anche uno dei massimi esperti italiani di questo tema. Tutto pronto per questa manifestazione? Sì, quasi tutto pronto, insomma, siamo in dirittura d'arrivo, per cui direi che dal punto di vista degli spazi, dei convegni, è tutto quasi definito. Abbiamo una quarantina di convegni, una novantina di espositori, la voce speriamo che ritorni, certo. E quindi siamo tutti pronti. Gliela facciamo recuperare. Vada allora. Dierisimo, poi viene da me e io le faccio le chinacea tutte. Le chinacea invece, perché cosa serve? Poi la voce la rimettiamo a posto. Gli facciamo noi fare qualche gargarismo. Allora, ai nostri ascoltatori la domanda è questa: quali sono le vostre domande sul tema della previdenza complementare? Avete pensato a progettarne una? Se ancora non l'avete fatto, perché state rimandando? Quali sono le vostre resistenze? Sono sono di natura economica o sono anche di natura mentale. 800 24 00 24 per condividere il vostro pensiero con noi. Di vista, il lavoro stressa, ma neurologicamente è un vero e proprio elisir. Ben venga la pensione, a patto che in pensione non vada il nostro cervello. D'altronde è proprio nell'attività della mente che si ritrova la risposta alla domanda su che cosa significa essere un essere umano. Oggi ne parliamo insieme al professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, un neurologo per amico, ormai mi piace definirlo così. Professor Barbanti, buongiorno. Buongiorno, grazie anche per la bella introduzione. Professor Barbanti, siamo quello che ricordiamo, ma anche quello che riusciamo a imparare. Spesso di fronte alle difficoltà che incontriamo nel ricordare, ma anche nell'apprendere nuovi concetti, ci viene il sospetto che il nostro cervello sia andato un po' in pensione o che ci voglia andare presto. Penso alla fatica nel ricordare i vari appuntamenti, le scadenze, i numerosi PIN, ma anche a imparare le funzioni delle nuove tecnologie. Tutti ormai navigano, sono connessi, ma professor Barbanti, che fatica! Ogni tanto si dice è una cosa da giovani, quasi a sottolineare che insomma gli anni pesano, e in questo senso dico alcune parti di noi forse sono pronte per andare in pensione nonostante non abbiamo l'età per farlo. Ma vorrei fare un parallelismo, visto che l'Italia è una repubblica in gran parte fondata anche sul pallone, tra l'invecchiamento, la tensione del nostro cervello e un calciatore tipo Zanetti che ha, mi sembra, 40 anni e ha giocato 600 partite. Allora occorre trovare un buon equilibrio tra l'avere i 90 minuti nelle gambe, e cioè avere una buona attività, e non andare in superallenamento, questo per crearci poi una buona tensione neurologica nel futuro. Un elemento importante però è che noi tendiamo a considerare neurologia dell'invecchiamento, quindi il pensionamento del cervello, solo il pensionamento delle nostre capacità cognitive, e questo in una maniera o nell'altra nel corso degli anni può succedere. Vorrei focalizzare l'attenzione anche degli ascoltatori su un tema molto interessante, che è quello della nostra capacità di muoverci. Se noi vediamo come si muove un settantenne, come si muove un quarantenne, c'è una diversa velocità, c'è una diversa sicurezza. Bene, sarebbe interessante vedere da un lato che cosa sia che causa questo, dall'altro le strategie per evitare di rallentarsi, di tremare, per esempio, tante volte. I nostri pazienti sono spaventati da questo sintomo, e cioè guardare un po' come può pensionarsi bene il sistema del nostro movimento, che è sicuramente neurologia allo stato puro. Quindi non solo memoria, ma aspettiamo i vostri interventi, non solo la capacità, il piacere, la voglia di imparare cose nuove, ma anche testiamo il nostro movimento, siamo ancora capaci di compiere movimenti armonici, siamo più lenti nel passo, incerti nelle scale, ci insospettiamo per un tremore, e parleremo anche di sensibilità, avvertiamo formicolie, scosse agli arti. 800 24 00 24. La mente non è solo memoria. Una volta è successo un fatto, io lo ricordo, ero bambino, mio padre aveva 49 anni, stava per andare in pensione perché all'epoca si andava a 49 anni. Ci fu un disegno di legge che diceva di prolungare l'età pensionabile dai 50 ai 55. Quindi mio padre ci rimase male, perché dopo due telegiornali, non lo capì subito, al secondo telegiornale l'ha capito, aveva capito che c'era questa ingiustizia in corso, si arrabbiò con mia madre, sbatté il piatto della minestra e fece Effettivamente magari molti italiani si saranno ritrovati nella stessa condizione del papà di Brignano, però volevo ritornare ad un commento fatto dal professor Barbanti poco fa. Diceva: come pensionarci bene? È chiaro che se anche la sfera economica ci aiuta, stiamo meglio. Ah, certo. E quindi possiamo, ci vuole un po' di tutto, avere attorno tutte le condizioni migliori, naturalmente, per come dire, goderci anche questo momento della nostra vita al quale arriviamo tutti. Risaluto Alberto Brambilla. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, lo abbiamo fatto anche molte volte, volte in passato quando l'abbiamo ospitato a Salvadanaio. Per chi non lo conoscesse, Alberto Brambilla è l'estensore materiale, l'autore della riforma del TFR, quella riforma contemplata, io ricordo i termini di legge per coloro che sono affezionati anche a questo aspetto, la legge 252 del 2005, che poi è entrata in vigore 2 anni dopo, nel 2007. Quell'anno, molti lo ricorderanno, ci fu il famoso semestre del silenzio assenso. Chi voleva poteva decidere di trasferire il TFR, il trattamento di fine rapporto che stava maturando, in una forma di pensione privata, un fondo pensione chiuso, aperto, una polizza assicurativa. Anche questi sono concetti che molti hanno dovuto imparare allenando, Nicoletta, la memoria, e con cui hanno dovuto prendere confidenza. Professor Brambilla, è d'accordo con questo? Il tema della previdenza complementare, d'altronde, è relativamente nuovo per il nostro paese. Beh, devo dire che in generale un po' tutto il tema del welfare è un po' nuovo nel nostro paese, proprio perché da tantissimi anni manca l'educazione civica nelle scuole, per cui oltre a non sapere come funziona lo Stato, come funzionano gli enti locali, eccetera, la gente non sa neppure come funziona il welfare. Eppure, nell'ultimo bilancio dello Stato, quello certificato per il 2012, noi vediamo che su 801 miliardi di spesa complessiva, compresi quindi i costi per il debito pubblico, per gli interessi del debito pubblico, ben la metà sono stati spesi tra previdenza, assistenza e sanità. È una cifra che difficilmente lo Stato si potrà permettere di pagare nel prossimo futuro. Ma che cosa farebbe uno Stato normale? Uno Stato normale informerebbe i propri cittadini, farebbe capire, non come capita purtroppo spesso e sta capitando anche adesso, siccome ci sono le elezioni, tutti facciamo le promesse, daremo anche agli incapienti, daremo anche alle partite IVA, non c'è più nulla da dare, non c'è più nulla da dare, perché questo paese ha una spesa eccessivamente elevata e per contro, a differenza di altri paesi, non ha quella cultura. Per cui quando abbiamo parlato di TFR la prima volta è stato un po' un problema, anche se poi devo dire che la legge sul TFR è stata nel 2007 un po' cambiata, per cui è stato tolto il fondo di garanzia per le imprese e questo ha rallentato di molto le operazioni in previdenza complementare, e soprattutto la libertà di lasciare il TFR in imprese è stata violata, perché per le aziende con più di 50 dipendenti il TFR, se anche il dipendente lo vuole lasciare in impresa, va all'INPS, quindi questo ha notevolmente rallentato. Ma è un po' tutto, un po' l'obiettivo della giornata nazionale della previdenza, ma è il nostro obiettivo quello di migliorare la conoscenza, se no si arriva in pensione impreparati, ma impreparati sotto tutti i punti di vista, esatto, anche psicologico, e anche con l'immagine di quello che hanno ricevuto i nostri predecessori, nonni e genitori, e invece non potremo più ricevere gli stessi trattamenti. Peraltro so che al vostro evento parteciperà anche il ministro Poletti, al quale magari questi messaggi potranno essere trasferiti serenamente. Sì, devo anche dire, se credo che ne abbia larga consapevolezza. Sì, devo dire che la quarta edizione della giornata della previdenza è il quarto ministro che noi passiamo, è la quarta volta che mandiamo tutti questi messaggi. Benissimo, allora tra poco abbiamo anche i nostri ascoltatori. Sono già pronti ad intervenire. Sì, bene. Sì, Luigi da Firenze, Luciano da Pescara. Buongiorno. Esatto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ah, chi è? Così, proprio si sono accavallati, facciamo corale. Una festa. Bene, mi piace. Luigi, diamo la precedenza a Luigi. Buongiorno Luigi. Sono io, sì. Eccolo qua. Allora io devo ringraziare voi, perché nel 2007 ho ascoltato praticamente la trasmissione sul fondo pensione e devo ringraziare specialmente Cesare perché mi ha aperto gli occhi, perché io sono uno di quelli che ha trasferito sotto una ditta del 15 dipendenti il mio TFR su un fondo pensione. E questo praticamente ha fatto sì che ho conosciuto praticamente lo stato pensionistico e come funziona. Cioè nel senso praticamente la domanda che io ho fatto anche all'INPS, per quanto concerne la busta, la benedetta busta arancione, la famosa busta arancione, neanche l'INPS te la danno, posso te garantire. Però andiamo al dunque. Diciamo che l'unica cosa che fa l'INPS è che ti può mostrare una fotografia del tuo estratto contributivo. Se ti doti di tutti i PIN puoi andare a vedere quanti contributi hai versato. Da lì però a dirti quanto questo si trasformerà nella tua pensione non è semplice, Luigi. Quindi però sul fondo pensione, Deborah, io ogni anno ho una busta praticamente dove ho quello versato e mi dicono attualmente quanto prendo in pensione praticamente nel mio futuro. Per sì, può andare alla sintesi, Luigi, che la sentiamo male, molto male. Quindi la sintesi è questo. Sì. Io ho notato praticamente i costi, come devo stare attento sui costi, perché ogni 2 anni ho un costo di gestione del 2%, ogni 5 anni Seconda domanda, io fondi incorporato e Luigi, guardi, la riprendiamo, Luigi. Mi scusi, e tra l'altro vorrei capire anche questo fondo, se è quello chiuso, se è quello di categoria, se ne ha fatto un aperto, se ha fatto un'altra iniziativa. Benissimo, mettiamo in stand by Luigi. Io volevo dire il fieno in cascina, ma stavo già avventurandomi su un proverbio che avrei sbagliato, come sempre. Andiamo anche a Luciano da Pescara, così li mettiamo tutti e due insieme. Luciano, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori. La mia domanda è questa: io ho 58 anni e 34 anni di contributi. Mi chiedevo, mi conviene fare una pensione integrativa in questo momento? È conveniente da un punto di vista economico? Certo, perché lei dice, insomma, mancano 7 anni ad andare in pensione, che convenienza economica c'è a farsi adesso una pensione di scorta? Certo, se versasse molto mensilmente, Alberto, esatto. Brambilla, eh. Beh, intanto sicuramente aderire a una forma di previdenza complementare conviene, perché noi in questo momento vediamo il fondo pensione soprattutto come uno strumento di previdenza, ma in realtà, per come l'abbiamo configurato nella 252, è il classico libretto di risparmio che quando eravamo piccolini noi ci facevano alle casse di risparmio. Quindi secondo me aderire a una forma di previdenza complementare, se poi è possibile anche aderire con 5.000 euro, quindi con il massimo deducibile dei 5.164, sì, dà sicuramente delle agevolazioni fiscali e comunque dà anche la possibilità, se per caso quando finirà di lavorare attivamente andrà in pensione, volesse avere un'altra attività, volesse fare un secondo lavoro, ha la possibilità di rimanere iscritto anche da pensionato e di poter versare, cosa che non potrebbe fare se non è iscritto a una forma pensionistica almeno un anno prima del pensionamento. Detto questo, la differenza comunque tra quello che oggi ha come aliquota marginale, che potrebbe essere un 37, un 40, sì, un 43%, e il 15%, che è l'aliquota massima, è comunque già un vantaggio, che sarebbe, come dire, di tutto rispetto ai fini del semplice, certo, risparmio. Se poi vuole arrotondare la pensione convertendo il 100% del montante, sicuramente si troverà anche bene, perché la pensione complementare non fa cumulo con la pensione pubblica e quindi non genera un surplus di tasse. Hai capito? Sì, quindi cara mia, anche se volessimo adesso goderci un po' la vita e fare la pensione integrativa quando avremo 60 anni, tanto io e te andremo in pensione ad 80. No, beh, non voglio essere così generalista, perché non è corretto. Troppo in là. 800 24 00 24, se alla pensione ci state pensando, e soprattutto che cosa state facendo per prepararvi alla pensione dal punto di vista del cuore, inteso come salute, e dei denari. Aspetta, non me lo dire. Marcella. No, Mirella. Ma sì, Mirella, certo, scusami. Ma ti ricordi quella cosa che mi avevi detto tu? Che bisognava sempre cercare il mistero. Quella cosa che dicevi tu. Dicevo così, non mi ricordo. Eccoci qua, professor Barbanti. Il lavoro nobilita, l'abbiamo detto, è un allenamento, ma stress. I neurofisiologi dicono che lo stress manda in tilt la nostra memoria. Tocca a tutti, secondo i dati di una serie di ricerche pubblicati su Wall Street Journal, ognuno di noi spende 15 minuti ogni giorno per ritrovare quello che ha perso. Nei giorni scorsi un bell'articolo su Repubblica, Rampini, citando le ricerche dell'Università di Bonn, di Princeton, della Washington University, scrive che in testa alle cause degli smarrimenti ci sono telefonino, chiavi di case dell'auto e documenti di lavoro. Allora, intanto che vi chiedo di stilare un elenco delle tre cose che tendete a dimenticare e che vi fanno perdere tempo, chiedo al professor Barbanti un rapido commento su questa memoria che a volte così ci fa pensare di essere prossimi alla pensione. Anticipiamo che non parleremo solo di memoria, ma anche di attività motoria, di movimento, di sensibilità, che sono proprio delle indicazioni, dei messaggi che il nostro cervello ci manda per in qualche modo informarci sulla sua stato di benessere o di affaticamento. Professor Barbanti. Ma l'esempio che lei ha citato dimostra un calo della memoria incidentale, cioè, diciamo chiaramente, della memoria che non serve a niente. Noi non dobbiamo memorizzare tutto, la memorizzazione è come una foto dettagliata con decine di milioni di pixel, è un fenomeno dispendioso, toccare l'informazione porta anche molto spazio nell'ippocampo, la maggior parte delle informazioni che ci arrivano è spam. Noi dobbiamo inserire un filtro, per inserire un filtro dobbiamo andare più piano. Io ricordo solo due punti: memoria e velocità. Il caso delle chiavi o quello che cerca il telefonino tenendolo in mano è come quando succede nei collegamenti via satellite: arriva prima il video, poi arriva l'audio. Cerchiamo un attimo di rallentare, perché se si va alla velocità di Speedy Gonzales non c'è tempo per sintetizzare le proteine. Questa è la parte della memorizzazione a lungo termine. E poi la memoria e la passione. Avere in mano pratiche di lavoro, chiavi della macchina o cellulare è una cosa che emoziona zero. E ricordiamoci che solo le cose che ci interessano sono ben ricordate. Quindi questo cosa vuol dire? Da un lato di cercare di rallentare il ritmo, dall'altro di condirlo con maggiore emotività, e dall'altro che a un certo livello di velocità questo tipo di smemoratezza non vuol dire che noi non siamo a posto, vuol dire solo che stiamo superando il limite connesso alla specie umana, e che sostanzialmente di quelle cose non ce ne frega niente. Lei ha parlato di velocità, ne parleremo tra poco. Intanto chiediamo ai nostri ascoltatori se notano di essere più lenti nel passo, incerti sulle scale, se hanno la tendenza un po' ad inciampare, se si sentono un po' precari. 800 24 00 24, che è il numero che ha composto Antonella, che ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno Antonella, benvenuta. Buongiorno e ben ritrovati, sono una vostra ascoltatrice, vi ascolto spesso, anche questo forse mi ha fatto trovare la cosa giusta. Bene, questo ci piace molto, siamo contenti. Antonella, che ci racconta? Che io diciamo che sono sempre stata una che ha cercato un pochino di trovare in me stessa l'equilibrio, quindi portare avanti sempre diciamo lo sviluppo di un po' armonico di diciamo fisico, intelletto, insomma, però per combattere un po', visto che ho 55 anni e devo trovare diciamo qualcosa che mi tenesse attivo un po' tutto, e ho avuto degli ottimi risultati anche trascinando mio marito. Sì. Cominciando, quindi ha fatto anche un po' di pesi. Sì. Brava, non solo attività aerobica. Abbastanza, insomma, era bello. Ah, e che poi per me lui aveva ancora più bisogno, perché essendo sempre immerso nel lavoro, forse non staccava mai, quindi era un po' più arrugginito di me. Qual è la sua ricetta, casalinga, Antonella? Allora, qual è la sua ricetta per andare in pensione, allora, in piena forma? Abbiamo cominciato un corso di Tai Chi e di tango. Fante. E siamo proprio, non lo so, una cosa splendida. Rinati, professor Barbato. Rinati proprio, dei bambini. Vedi, passano i dolori. La notte passiamo tardi a ballare, non sentiamo più la stanchezza, come a 20 anni. Magnifico, Antonella. Vedi, Deborah? Che a forza noi parliamo io e poi tango... i nostri ascoltatori producono. Professor chi Barbanti è il nostro amico, te lo ricordi? Qua. Tutte le volte che ce lo mettono, Deborah mi dice è un segnale chiaro di quello che dobbiamo fare. Professor Barbanti, ritorneremo sul Tai Chi e sul tango, accomunati dalla passione, dal piacere di fare le cose. Questo è un po' il segreto per andare in pensione in forma, con la testa, vero? Sì. Tai Chi e Tango sono una perfetta fisioterapia per il sistema nervoso extrapiramidale, quello che rende l'uomo diverso dal robot, e cioè quello che dà armonia, grazia, velocità, capacità di cambiare schema corporeo. Quando noi abbiamo un risponditore automatico, sentiamo cosa sarebbe il nostro frasare senza il sistema nervoso extrapiramidale, che è l'architetto che abbellisce, mette gli stucchi, mette le decorazioni, crea la melodia. Tango esattamente, il Tai Chi sono questo tipo di tecnica, e che ovviamente oltre a fare molto bene allo spirito fanno molto bene alla coordinazione corporea. Dottor Brambilla, lei sa ballare il tango? Esatto, ero lì pronta. Quasi? Vabbè, dopo la diretta. La faccia no, è tutto un programma. A tra poco. Cuore e denari. Non è mai troppo presto per prepararsi alla terza età e non è mai troppo tardi per rimediare ai danni che il tempo può arrecare. Così scrive Alberto Oliverio nel suo libro Istruzioni per restare intelligenti. E dato che noi oggi parliamo di pensioni, prendendo spunto dalla tua pensione, come potenziare la copertura previdenziale, dizionario della vita pratica in edicola oggi col Sole 24 Ore, Vogliamo, con l'aiuto del professor Barbanti, andare in pensione con un cervello giovane. Per farlo possiamo giocare, come si dice, d'anticipo. La nostra ascoltatrice puntava sul Tang, sul Tai Chi. Bravissima. Possiamo comunque investire sul nostro cervello, diversificando, come ha fatto la nostra amica, gli stimoli e impegnandoli in attività varie che funzionano proprio come una sorta di allenamento. Ma oggi vogliamo anche cercare di dare risposta a quei segnali che a volte ci fanno sospettare che una parte del nostro cervello in pensione ci stia andando o sia già andata. Stiamo testando la nostra capacità di imparare cose nuove, di ricordare le cose, ma anche la capacità neurologica di compiere movimenti armonici, rapidi e coordinati. Vi abbiamo chiesto come camminate, se siete un pochino più lenti, se tendete ad inciampare, se le scale, quando dovete scendere le scale, tendete ogni tanto a tenervi un po'. E vogliamo anche testare il funzionamento delle nostre sensibilità, intese come formicolii, piccole scosse, oppure anche vogliamo misurare il contatto appunto con il pavimento quando camminiamo, oppure sapere se le gambe bruciano, se abbiamo i crampi. Tutto questo sono segnali che ci manda il nostro cervello. Professor Barbanti. Ma intanto volevo ricordare una cosa proprio di movimento. Noi siamo in piedi da 1,5 milioni di anni, è una storia molto dura, e il nostro passo ha una sua evoluzione fisiologica. Pensiamo che grosso modo si stabilisce che noi a 12-14 mesi cominciamo a camminare, e il nostro passo diventa normale quando è circa un metro e tre al secondo. Bene, cosa succede quando noi andiamo in pensione? Beh, intanto quando noi andiamo in pensione magari giriamo per Milano o per Roma per fare la spesa. I semafori dell'Europa sono settati per una velocità di circa 1,3 metri al secondo. In parole povere cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo correre e spesso non ce la facciamo. Un altro degli aspetti interessanti è che se vediamo come la specie umana modifica il movimento del passo, o meglio della camminata, abbassa le braccia. Il bambino, nostro figlio, nostro nipotino, lo vediamo camminare con le braccia alte nei primi passi, poi piano piano le abbassa. Un segnale che può essere allarmante per il neurologo è quando il soggetto cammina con le braccia aderenti lungo i fianchi, ma quando non ha più quello swing, quel pendolarismo delle braccia che rendono l'equilibrio più stabile. Quindi insomma tanti piccoli aspetti nella fotografia del quotidiano che possono far capire se il sistema del movimento sta andando in pensione lentamente o se c'è una troppo rapida evoluzione. E sono aspetti che si possono in realtà in gran parte curare, ma per molti versi vanno prevenute con uno stile di vita idoneo. Allora, movimento e memoria. Professor Brambilla, tornando alle forme di previdenza complementare, a proposito di ciò che dobbiamo ricordare, ricordiamo che il sistema delle forme pensionistiche integrative si compone di una gamma piuttosto articolata di strumenti. Alla fine del 2013, scatto questa fotografia molto rapida, erano presenti sul mercato 39 fondi pensione negoziali. Questi sono dati recentissimi della COVIP, la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione. 59 fondi pensioni aperti e 81 piani individuali pensionistici di tipo assicurativo e anche 330 fondi pensione preesistenti, cioè istituiti prima del 1992. Tutto questo mi porta a dire certo che fare una scelta coerente con le proprie esigenze non è semplice, proprio perché gli strumenti presenti sul mercato sono tanti. Dobbiamo laurearci tutti in economia per capire le dinamiche del fondo pensione, professor Brambilla, oppure possiamo sottoscrivere un prodotto, dimenticarci che lo abbiamo fatto e vada solo, alla fine troveremo un buon assegno, che era un po' questo anche il tema che poneva l'ascoltatore di Firenze, no? Ogni quanto devo fargli un po' di manutenzione? Ma allora, intanto va precisato che al di là dei 300 fondi preesistenti, la cui stragrande maggioranza, tolti i primi 20, sono proprio fondi ormai chiusi, quindi che nessuno può scegliere e a cui nessuno può aderire, per quanto riguarda le tre tipologie di fondi, i fondi aperti, i fondi negoziali e i piani individuali, hanno le medesime regole giuslavoristiche, le medesime regole fiscali, quindi sono regolati dalla medesima norma, per cui se uno pensa risparmio di più fiscalmente da una parte o dall'altra, risparmio oppure uguale, guadagno di più col prodotto assicurativo. L'unica rispetto cosa che c'è, pensione, ecco, l'unica cosa che bisogna guardare sono i costi di ingresso. Eccolo là. Ecco, e quindi bisogna valutare un attimino, e per questo ci sono tutte le possibilità, anche per chi non è proprio, come dire, addentro alle cose, di verificare un buon fondo a aperto, un buon fondo negoziale, un buon PIP, con un costo di ingresso che in genere non superi l'1% e le commissioni di gestione che in genere non superino l'1%, è una buona regola. Ma la regola principale in questo momento è quella di leggere il fondo pensione non con l'obiettivo finale, che è appunto la pensione, ma di leggerlo proprio come un libretto di risparmio. Questa è la regola prima. Se uno prende questa regola, più o meno tutte le forme... Anche perché può essere utilizzato il fondo pensione alla stregua di un piccolo salvadanaio, perché si può riscattare in via anticipata, per cui ecco, è chiaro che l'obiettivo, lei diceva non guardiamolo, ma in realtà è quello di costruire una pensione integrativa, però in caso di necessità si può prelevare da questo piccolo accantonamento appunto per chiaramente rispondere alle esigenze che si manifestano nel corso della vita. Che andiamo a sentire? Andiamo a sentire Marco che ci chiama da Rovigo e poi Giordano da Milano. Eccolo qua, Marco, buongiorno. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, beh, come cuore parlo di arti marziali, va bene. Come denari volevo capire una cosa. Se come cuore di arti marziali, come denari, quindi? Sì, come denari volevo sapere e capire in che percentuale e se possibile il TFR farlo parte come TFR e parte come integrativa, tutto lì. E che percentuale magari, ecco. Allora, perché c'è dunque Marco, tra l'altro non ha raccontato tutto, lo vedo qua nelle anticipazioni che ci hanno scritto le nostre colleghe del centralino. Marco, che ringraziamo. Ha, esatto, 33 anni di contributi, da 6 anni nei trasporti, chiede si può fare una parte come pensione integrativa e l'altra come TFR, quindi il TFR che va maturando, si può decidere di trattenerne una parte in azienda, una parte destinarlo al fondo pensione, oppure secondo lei vale la pena dirottarlo tutto, Brambilla? Beh, no, diciamo che la norma per coloro che erano iscritti prima del 96 prevedeva l'opportunità di versare almeno il 50% del TFR. Potrebbe essere che l'ascoltatore lo sia, perché se ha già 33 anni di contributi... Se era già iscritto a un fondo pensione, allora può dirottare il 50% al fondo e tenere il 50% in azienda. In realtà, se è nel settore dei trasporti, potrebbe anche essere che una parte del TFR la versa già al FASCA, che è il fondo dei trasporti, che non è un fondo pensione a tutti gli effetti, ma è una vecchia cassa di previdenza istituita negli anni 40. Infatti neanche me lo ricordavo il FASCA. Per cui, se non hanno nulla, deve dare il 100% del TFR al fondo pensione se opta per la previdenza complementare. Se fosse già iscritto basterebbe il 50%, sapendo che comunque per motivi di salute, auguriamoci di no, ecco, per motivi vari, dopo comunque dopo otto anni può riscattare parzialmente il fondo, sì, perché è molto flessibile. Al professor Barbanti mi prendo spunto dal nostro ascoltatore che ha detto per il cuore arti marziali. Il dottor Brambilla ci raccontava che sta avvicinandosi allo yoga. Si poteva dire. Certo, perché noi oggi vogliamo raccogliere dai nostri ascoltatori e quindi anche dai nostri esperti consigli e suggerimenti per prepararsi a questa parte della nostra vita che ci auguriamo lunga e felice. E ci aiuta naturalmente il professor Barbanti. L'ascoltatrice raccontava tai chi e tango, c'è chi si dedica al golf, c'è chi invece accantona, voglio dire, questo genere di attività, mi passi il termine motorie, anche se lo yoga e il tai chi non sono solamente attività motorie, ma hanno dietro molto di più, per dedicarsi invece a nuovi interessi, l'ascolto della musica, la lettura, c'è chi impara una seconda lingua. Insomma, il cervello è curioso e nello stesso ama una dieta varia ed equilibrata, quindi l'attività motoria gli fa bene come una dieta ricca di stimoli culturali. Ma professor Barbanti, se dovessimo fare la dieta ideale per mantenere un cervello in forma di un cinquantenne che quindi in questa fase della vita può ancora fare degli investimenti e, come mi insegna Deborah, diversificarli, che cosa dovrebbe fare? Beh, cominciamo a levare le cose che non servono, perché obiettivamente alle nostre latitudini ormai le diete sono fin troppo ricche. Cerchiamo di togliere l'eccesso di alcol, metto l'eccesso perché il resveratrol serve per vivere a lungo. Sì. Cerchiamo di prendere la vitamina B12, e qua parlo da neurologo, e cioè la vitamina B12 è fondamentale per la manutenzione ordinaria dei nostri nervi periferici. Cali di vitamina B12 possono essere presenti nei soggetti che siano vegetariani un po' ortodossi, o meglio non accorti, perché la vitamina B12, che pure non è esclusiva del mondo animale, è sostanzialmente prevalente nel fegato, nelle uova, nel pesce. E poi darei anche un consiglio: noi viviamo in un'epoca di integratori spesso comprati anche via internet. Anche il migliore integratore comprato attraverso internet può essere pericoloso. Ne citerò tre. Uno è il Kava Kava o Kawa Kawa, come lo si voglia pronunciare, che ha proprietà ansiolitiche e antidepressive, è un fattore di rischio per il Parkinson. Un'altra sostanza che veniva usata da Gandhi, non solo da lui, con proprietà ansiolitiche, questa Rauwolfia serpentina, che anche questa può stimolare la insorgenza di tremori e rallentamenti motori. E poi ricordiamoci che una delle sostanze più pericolose per lo sviluppo dei parkinsonismi, e purtroppo il movimento invecchia in alcune persone, sono 5 milioni al mondo le persone affette da Parkinson, il rotenone, che è un insetticida naturale estratto dalle radici di alcune leguminose simili al piretro, può dare fastidi. Quindi mi spiace aver dato un consiglio alimentare dicendo ciò che bisogna evitare, però cominciamo dalle eliminare le cattive abitudini. E poi, dopo le informazioni sul traffico, naturalmente nel corso della trasmissione il professor Barbanti ci dirà non solo che cosa eliminare, ma che cosa magari aggiungere. Cuore e denari. Scusi tanto signora, sa dov'è che danno le pensioni? Di là? Grazie. Molto gentile. Pirini? Chi è? Io, Fantozzi. Qui, carissimo Fantozzi, come va? Ecco, per prendere la pensione, suppongo. Sì, la ce l'hanno, mi ha detto. Ma dove andiamo? Lì, venga, l'accompagno. Ah, grazie. Fantozzi, che pacchia questa pensione. Si prendono i soldi senza lavorare. È qui. Grazie. Sì, è vero, ma non so lei... Al mattino ogni tanto non sente come un... Giramento di testa? No, è come una nostalgia. Numero 32! Vabbè, mi hanno chiamato, eh? Arrivederla, a presto. È così, Nicoletta, qualcuno sicuramente quando va in pensione la nostalgia del lavoro la sente. Assolutamente. È un momento per qualcuno anche davvero traumatico. Noi oggi lo affrontiamo anche dal punto di vista economico, parliamo di pensioni, ma parliamo soprattutto di pensioni integrative. Con noi Alberto Brambilla, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico della Giornata Nazionale della Previdenza, oltre che ideatore e fondatore di questa iniziativa. Stiamo leggendo e scorrendo anche insieme a Nicoletta i tanti messaggi che stanno arrivando stamattina al 349-238-6666, tantissime le telefonate. Volevo leggerne di messaggio uno di Michela, che ci racconta che si occupa di assicurazione e previdenza integrativa. Ritengo che però il mio lavoro non sia la vendita di fondi pensione e piani di previdenza, ma la diffusione culturale della necessità e della bontà finanziaria e fiscale degli strumenti di previdenza integrativa, concetti ancora troppo sconosciuti, noi lo dicevamo proprio all'inizio, e sottovalutati dai cittadini italiani. Questo ritardo di consapevolezza previdenziale compromette la sostenibilità del tenore di vita dei pensionati di domani. Michela ha fatto un affresco, direi assolutamente condivisibile, no, della situazione. Brambilla, è anche vero che ci scontriamo oggi con una situazione economica molto complessa che ha portato molti italiani ad interrompere i versamenti che stavano facendo presso uno strumento di previdenza complementare. Allora, il quadro che ha fatto Michela è perfetto. I promotori finanziari, gli agenti di assicurazione sono proprio i demoltiplicatori di questa cultura della previdenza, che peraltro nel nostro paese non c'è. Ricordo che però nei paesi del nord Europa ci sono una o più manifestazioni nel corso dell'anno gestite dal pubblico per fare sì che la gente comprenda come funziona il welfare in generale, e molti di questi programmi sono anche fatti sulla salute. Un bicchiere di riso, un bicchiere di orzo danno da mangiare una famiglia di 3 persone per 2 giorni, e quindi è tutta una cultura che è diversa e che da noi non c'è. Noi siamo ancora fermi a piangerci addosso. La gente ha diminuito i versamenti alla previdenza complementare, non ha capito esattamente che cos'è questo strumento, e abbiamo un paradosso che nelle ultime indagini emerge che il risparmio, il tasso di risparmio annuo degli italiani è leggermente aumentato, ed è un fattore abbastanza normale nei momenti di crisi, nei momenti in cui c'è incertezza, normalmente i consumi si tende un po' a risparmiare. Se anziché risparmiare lì si risparmiasse dall'altra parte, quindi nel fondo pensione, si otterrebbe anche un aiutino dallo Stato, perché chiunque versi 4.000 euro l'anno anziché in un prodotto normale, in un fondo pensione, al di là del vincolo degli 8 anni per poter ritornare in possesso di una parte di questi quattrini, però insomma la metà quasi ce la mette lo Stato, quindi non è una cosa di poco conto. E quindi noi assistiamo da un lato a un aumento del risparmio in senso generale e dall'altro a una leggera diminuzione del risparmio previdenziale, che è esattamente quello che non si dovrebbe fare, direbbe il professor Barbato. Questo non si dovrebbe... Professor Barbanti direbbe che Barbanti. Non si dovrebbe fare. Direbbe di sì. Perché ormai vi intrecciate, gli ospiti di Cuore Denari... Guarda, ti dirò di più, che nella giornata nazionale della Previdenza, in programma a metà maggio, ci sono molte iniziative legate anche alla salute, esattamente come ha fatto il Salone del Risparmio. Come mai si intrecciano sempre di più le tematiche del benessere collettivo, professor Brambilla, con le tematiche economiche? Perché ormai c'è Cuore Denari... La gente e noi ci siamo adeguati subito, no, soprattutto perché noi abbiamo una diciamo un aumento della speranza di vita in Italia. Noi diciamo che tra il Giappone, l'Italia e in parte la Francia siamo i paesi con la longevità maggiore. Detto questo, noi andiamo verso una speranza di vita che rasenta i 90 anni e più per le donne e circa 4 anni e mezzo in meno per gli uomini. Il punto è che le nostre pensioni saranno, per quanto come dire generose, saranno modeste. In quale fattispecie? Nel momento in perché cui spalmate si su una genera... platea più ampia, questo è bene che si sappia anche, no? Questo sì, però soprattutto perché noi il fenomeno della non autosufficienza non l'abbiamo mai sentito tanto, perché la speranza di vita in Italia è sempre stata piuttosto bassa negli anni passati. Oggi sta aumentando di circa 2 mesi e mezzo per ogni anno, prendendo lo scenario centrale di previsione, quindi né troppo pessimista né troppo ottimista. E quindi il fatto di pensare alla salute è fondamentale, perché e qui si sposano le due cose: da un lato fondo pensione e se possibile con attaccata una piccola polizzetta per la non autosufficienza, che magari raddoppia o triplica l'importo della pensione nel momento in cui io mi trovo in una situazione di non autosufficienza, e dall'altra la salute. Noi abbiamo un'alimentazione, abbiamo, diciamo che il 30% della spesa sanitaria è dovuta alle cronicità, e una parte consistente di queste cronicità sono dovute praticamente a un cattiva alimentazione, a un cattivo stile di vita. E quindi almeno non ho strumenti per contestare, mi devi aiutare tu. Professor Barbanti, vorrei un suo commento a riguardo. Sì, c'è da dire che c'è anche una purtroppo una spesa farmaceutica che si sta sempre più contraendo, perché la spesa sanitaria non è esattamente la spesa farmaceutica, si sta contraendo sempre di più. Ci sono delle grandi diversità tra regione e regione nelle capacità e le possibilità di spesa. È fondamentale che il soggetto continui a camminare. Continuavamo a battere sul tasto movimento. Un soggetto che abbia un deterioramento cognitivo, che abbia una forma iniziale di demenza, ma che possa essere accompagnato in bagno da solo, cammini normalmente, richiede un impegno per la fatica e economico molto inferiore rispetto a un soggetto che ha una disabilità neurologica, come noi diciamo, extrapiramidale, cioè un Parkinson avanzato. Sono pazienti pesantissimi da gestire, sono patologie che sono inevitabilmente in crescita, anche perché, torno a ripetere, a differenza di quanto si sa per l'Alzheimer, il Parkinson per esempio dipende fortemente da fattori ambientali. Pensate che il Parkinson prevale nelle zone rurali rispetto alle zone cittadine e sembra essere legato maggiormente alla presenza di veleni, quali i pesticidi, gli anticrittogamici, quindi in questo siamo un po' responsabili. Volevo solo dire una cosa molto rapida relativamente alle arti marziali e allo yoga. Ben vengano, viene stimolato il sistema nervoso a usare degli scambi come i ferrovieri, e cioè io per compiere un gesto, per essere in equilibrio, uso 3 canali, il canale movimento, il canale visivo e il canale uditivo, meglio vestibolare, che mi dice se sono in equilibrio o no, se sono in bolla o meno. Ebbene, quando uno di questi canali scompare, cioè io entro in una zona d'ombra e sono una persona anziana, rapidamente occorre scartare e investire maggiormente sulle informazioni che provengono dagli arti inferiori. Ho messo il piede in fallo su una mattonella messa male, questo tipo di esercizi, le arti marziali e lo yoga, continuano a facilitare le informazioni che noi chiamiamo propriocettive, cioè i nostri proconsoli messi nelle periferie ci informano di dove sono gli arti e ci conducono a programmare meglio il movimento. La spiegazione è complicata, fare quegli esercizi molto meno. Vede, dottor Brambilla, lei ha scelto lo yoga e ha scelto bene. Quindi avanti con lo yoga, 800 24 00 24, anche avanti con le vostre telefonate, naturalmente per andare in pensione felici e contenti. E anche no, però un pochino di sacrifici bisogna farne, naturalmente, quindi bisogna fare una pianificazione corretta. Allora io prendo adesso, direi, se sei d'accordo, la domanda di Giordano da Milano, ma certo, è complessa, avevo già la mia risposta in testa, ma la farò suffragare appunto dal professor Brambilla, lo sentiamo, poi gli rispondiamo dopo il giornale radio. Giordano, rapido, rapido, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Io ho un piccolissimo fondo pensione. L'idea che mi sono fatto è che se io verso, diciamo, 100, sì, 100 euro al mese, poi avrò indietro gli stessi 100 euro. Quindi per avere una pensione che abbia un significato, lo sborso, l'esborso da fare non è indifferente. Bisogna vedere appunto qual è l'integrazione di cui lei ha necessità in relazione all'assegno pubblico che prenderà, perché dobbiamo partire anche da quel ragionamento. Cuore e denari. Concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione. E siamo tornati insieme in questa puntata in cui facciamo un po' il punto sul modo di concepire la pensione dal punto di vista dei denari e del cuore. In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, neurologo, che ci aiuta ad individuare quelli che sono i segnali del nostro cervello, che a volte pensiamo vada in pensione prima del tempo, e abbiamo anche qui in studio il dottor Alberto Brambilla, come l'ha definito Deborah, padre della riforma del TFR, organizzatore della Giornata Nazionale della Previdenza. Noi vogliamo essere previdenti, professor Barbanti. Lei oggi ci ha invitato a porre la nostra attenzione sui segnali motori a volte vengono sottovalutati e si arriva quindi alla diagnosi magari di alcune patologie. Ci riferivamo anche alle patologie croniche degenerative che gravano proprio su molte famiglie, su alcuni dettagli che possono permettere al medico di fare diagnosi precocemente e di intervenire. E poi naturalmente vogliamo anche che lei ci completi un po' la ricetta per mantenere il cervello in forma. Ha elencato le cose da non fare, vorremmo anche poi sapere le cose da fare, perché il cervello, lo sappiamo, deve essere nutrito, ossigenato e adeguatamente riposato. Professor Barbanti, iniziamo da questi segnali su cui oggi vogliamo attenzionare i nostri ascoltatori, naturalmente per fare informazione senza spaventare nessuno. Senza dubbio, ma intanto pensiamo ad alcuni aspetti legati così propriamente ancora una volta al movimento. Quelle persone, ad esempio, che hanno un movimento facciale, una mimica facciale che è diventata un po' fissa, persone che sembrano sempre un po' assonnate, che battono meno gli occhi, quella che viene definita la rarità dell'ammiccamento, oppure persone che hanno una maniera di camminare nella quale si vede il passo che è diventato più piccolo, o un'incertezza quando vengono chiamate e devono girarsi e ruotare per andare da un'altra parte. Direi sempre di stare anche così accorti a vedere cambi di umore in soggetti che non hanno mai avuto nell'umore il loro problema principale. Quali possono essere le medicine non medicine per poter evitare tutto questo? Per quanto riguarda il movimento, paradossalmente alcune cose che notoriamente sono vietate sono invece quasi raccomandabili. È il caso per esempio della caffeina. Il caffè è una sostanza, è uno psicostimolante, è uno psicofarmaco vecchio come il mondo, e la caffeina agisce su alcuni recettori chiamati recettori A2 dell'adenosina, per cui può stimolare il nostro movimento, e quindi questo intanto è un qualcosa per tenerci in forma non solo mentale ma anche come coordinazione. L'altro aspetto è l'aspetto della nostra respirazione cellulare. Noi abbiamo dei grandi polmoni all'interno dei neuroni che si chiamano mitocondri. Grandi dovrebbero essere, alcune volte sono congenitamente oppure diventano nel corso del tempo un pochino più asfittici. E in questo caso facilitare la respirazione dei nostri mitocondri, da un lato facendola noi la respirazione, ribadiamo sempre il concetto dell'attività fisica, 45 minuti di attività aerobica, cioè passeggiata veloce tre volte a settimana, allontana nettamente il rischio di invecchiamento cerebrale, ispessisce la nostra corteccia cerebrale, specie nel lobo frontale che è quello della soluzione dei problemi. E poi, per integrare, sostanze ricche di coenzima Q10, per esempio, ci sono degli studi anche con la creatina, che nel calcio ha creato qualche scompiglio, meglio non citarla, sono sostanze che consentono quindi di produrre meccanismi di respirazione cellulare migliore. E infine un aspetto, solo una piccola chicca per chi ci ascolta, sembra che la causa di alcune malattie degenerative del movimento, tra queste anche il Parkinson, non sia lontana da quelle delle malattie dei prioni, e cioè c'è una proteina che a un certo punto viene piegata male, un po' come le cartine geografiche che quando le apriamo non sappiamo più rimetterle. Ebbene, questo misfolding, questo alterato ripiegamento, un evento stocastico rarissimo, può poi traviare tutte le altre. Io vi ho messo un po' di pepe, vediamo un po' quello che ci dicono gli ascoltatori. 800 24 00 24 se volete intervenire per dare dei vostri suggerimenti, se avete invece qualche dubbio, qualche segnale che volete sottoporre e descrivere al professor Barbanti, noi naturalmente vi aspettiamo. È pronto peraltro proprio su questo tema Pierluigi da Genova, ma avevamo in sospeso il quesito che ci ha posto Giordano da Milano prima per il professor Alberto Brambilla. Lui dice sì, vabbè, io posso anche versare, fare questo, che per qualcuno è anche un sacrificio, ma se metto da parte 100 euro al mese non è che poi fra un tot di anni mi ritroverò chissà quale capitale, sarà tutto come dire equiparabile, esatto, proporzionato a questa cifra. Beh, intanto meglio 100 che niente, sono 1200 euro l'anno e magari ci aiuta questa cifra a toglierci di torno una rata del mutuo, se ancora lo avremo nel momento della pensione, o magari farci anche un viaggio, perché no? Beh, intanto diciamo questo, che bisogna un po' smitizzare il fatto che per avere una pensione complementare bisogna versare molto. Quello che invece, quello su cui dobbiamo puntare è proprio la conoscenza, la capacità di dire ai giovani che hanno magari davanti 40-45 anni di vita lavorativa, anche se non magari totalmente attiva, che è sufficiente versare poco. L'esempio classico è per quelli che cominciano con 15.000 euro di reddito, che è già un buon reddito d'inizio, e vanno fino ai 25.000 euro, basta versare 38 euro al mese per farsi un 10% di pensione in più, quindi tutto sommato sono 500 euro l'anno scarsi. Di questi, peraltro, anche con l'aliquota marginale modesta del 23%, il 23% comunque ce lo mette lo Stato. E se poi fosse anche un lavoratore dipendente, un po' ce lo mette anche, ce lo mette anche il datore di lavoro. Per cui veramente basta poco. E peraltro, nei paesi in cui questa cultura è più sviluppata, la previdenza complementare è più sviluppata. Paesi che non hanno il nostro tenore di vita, che hanno un tenore di vita molto più modesto, la previdenza complementare ha uno sviluppo, pesa diciamo per il 70% sul PIL, ecco, da noi pesa per il 7%, certo. Ma noi siamo sempre un po' arretrati. Senta, no, tra l'altro la domanda di Giordano da Milano in realtà ci può portare a fare un'altra considerazione. È chiaro che uno potrebbe dire io verso tot per avere tot, se sapesse con un certo margine di certezza quale sarà il suo assegno pubblico che andrà a maturare. Quindi questo per arrivare a chiederle, professor Brambilla, secondo lei avremo questa speranza di vedere la busta arancione che ci arriva a casa, secondo lei si concretizzerà prima o poi? Lei dice 4 anni di giornata nazionale della previdenza, 4 ministri del lavoro, alle prese però con emergenze di tutt'altro tipo, questa è una promessa. Beh, io mi auguro, intanto adesso senza voler fare troppa politica, che questo governo faccia un'inversione di tendenza, perché se noi continuiamo a occuparci delle emergenze, il paese sarà sempre in emergenza. Ecco, quindi bisogna proprio cambiare registro, utilizzare welfare integrativo che noi non utilizziamo. Ne dico una, noi oggi stiamo dicendo tutti di questi 80 euro che non sappiamo se poi saranno strutturali e a chi andranno. Bene, basta che noi facciamo 50 km e andiamo in Svizzera. In Svizzera tutti i lavoratori hanno un buono pasto da circa 11 euro, l'equivalente, hanno un buono trasporti da circa 5-6 euro. Se noi in Italia prendessimo il nostro buono che vale 5,19 euro ed è fermo al 1996, anche se la tassazione è 2014, e lo portassimo a 10 euro e dessimo il buono trasporti di 10 euro, di 5 euro, 5 più 5 fanno 10, siccome i giorni lavorativi sono 20, il lavoratore si troverebbe 200 euro netti in busta paga senza andare a scomodare nulla. Purtroppo il settore del welfare integrativo per noi non esiste, tant'è che il governo Letta che cosa ha pensato? Ha detto, beh, questi si stanno assicurando ancora con i famosi 2 milioni e mezzo, cioè i 1291 euro che vengono peraltro non dedotti ma detratti fiscalmente al 19%, ecco, dimezziamoli. Quindi questo è il significato, è un paese che sta andando contro tendenza ed è un paese che non riesce a capire la sua posizione, per cui un uso intelligente del welfare integrativo, della previdenza complementare. Quando io ho scritto questa norma è venuto giù il mondo perché ho messo tutte le anticipazioni e riscatti, ma la mia idea era proprio quella di consentire a un ragazzo che viene iscritto dal proprio papà a 8 anni, a 18 vai a fare un corso all'estero, prelevi il 30%, cosa ci paghi? Il 23% di tasse. Bene, quando lo puoi rimettere giù questo 30%, recuperi il 23% di tasse, poi ci sarà un master, poi ci sarà la ristrutturazione della casa, ecco, è perché lei aveva un prodotto che ti accompagna per tutta la vita. Se io non riesco a far capire che non è per la pensione, chi vuole che a 25 anni, a 20 anni si occupi di andare a prendere la pensione? Non me ne preoccupavo. Però, nemmeno io. Va visto in questo senso, nel senso del risparmio, e in questo fatto è molto molto agevolato. L'intervento iniziale della giornata, cioè il convegno inaugurale, sarà che il fondo pensione è un salvadanaio per i giovani. Perfetto, dopo riparleremo della giornata della previdenza perché ci sarà anche un grandissimo incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro e quindi cercheremo di capire quali iniziative e soprattutto se le persone che ci ascoltano possono venire a Milano a seguire questi incontri. Intanto sentiamo le domande dei nostri ascoltatori. Abbiamo Pierluigi da Genova e poi Andrea da Padova e Luisa da Genova. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, saluti a tutti, complimenti non per la trasmissione ma per la radio. Telegrafico, io sono andato in pensione da un anno e mezzo, per quanto riguarda, ho sentito la trasmissione e i commenti di certe persone che magari possono andare in pensione e viverla in modo sbagliato. Io che sono andato in pensione penso che sia una delle cose più belle che mi ha dato la vita, dopo i figli, la famiglia e così questo genere, perché mi ha dato un grande senso di libertà. Io vivo la vita senza più pensieri, dove andare, faccio quello che credo, è un concetto di libertà interiore che è indescrivibile. Quindi la pensione è una grandissima bella cosa, la vivo con mia moglie, con la famiglia, certo. E con i nipoti. Quindi premesso questo, è un concetto di libertà umana, interiore, qualsiasi cosa. Due, tre, volevo dire una cosa, entrando un attimo nel merito delle questioni delle pensioni, se noi il signor professor Lidney, che è molto esperto, ma facendo se lei mi facesse un paragone fra il fatto di dire io verso tutti i mesi ho una trattenuta INPS mensile, ma se questa trattenuta, che non è una è sostanziale come cifra, fosse stata investita come un mutuo, dopo 40 anni è impossibile che non mi possa rendere come una pensione accettabile, magari anche superiore a quella che potrebbe darmi l'INPS, senza aver bisogno di un'integrativa. Premesso ai miei figli, la prima cosa che ho detto, appena iniziato a lavorare, dal primo giorno fate una piccola pensione integrativa. Certo. Pierluigi, in realtà se andiamo a guardare i dati dei rendimenti dei fondi pensione chiusi, aperti, i piani individuali pensionistici e i rendimenti di questi ultimi anni e il trattamento di fine rapporto conservato in azienda, adesso io non so se Alberto Brambilla ha i dati sotto mano, li ripesco magari io al volo che li avevo presi dalla Covip stamattina, in realtà sono molto più soddisfacenti. per cui dobbiamo un po' contestare questa impostazione dell'ascoltatore. Adesso ritrovo intanto. Beh, intanto possiamo dire una cosa, che coloro che avranno, e sono tutti quelli che hanno cominciato a lavorare dopo il primo di gennaio del 1996, quindi non è il caso sicuramente dell'ascoltatore, avranno una pensione che sarà molto correlata ai contributi versati, ma tutte le persone come l'ascoltatore, se avessero anche risparmiato e messo da parte i quattrini, non avrebbero la pensione che gli ha dato l'istituto. Cioè, nelle pensioni di tipo retributivo come è quella dell'ascoltatore c'è incorporato un vantaggio che i giovani si scorderanno, quindi lui starà prendendo in questo momento una pensione che come minimo è superiore del 20-25% a quello che avrebbe realizzato investendo anche in titoli di Stato. Questa è la verità. Ed è questo che ha gonfiato il debito. Il 70% del debito pubblico convenzionale sono i disavanzi del sistema di welfare che non ci possiamo più permettere. Allora, sì. Debra, che dici? Andiamo a Padova, andiamo che c'è Andrea, sì. E poi c'è un messaggio di Adriana per il professor Barbanti. Andrea, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Dopo l'intervento del precedente ascoltatore, temo di essere fuori tema, avevo un quesito per il neurologo. Ma noi ci siamo, noi stiamo intrecciando, andiamo in pensione. Allora lei ci dice che non ha capito quale denari, sa che intrecciamo tutto noi. Sì, ma non, ok, ero un po' spiazzato. Comunque, ho 45 anni, apparentemente di ottimo stato di salute, e ho un sintomo strano che con il medico di base non siamo riusciti a trovarne una spiegazione. Ho una strana sensazione di freddo alle gambe, localizzata sulle cosce, che mi viene senza una logica. Ho fatto una serie di controlli, esami, sangue, tutto a posto, colesterolo bassissimo, ecco, color Doppler, circolazione. Insomma, si è fatto tutto controllare. Andrea, si dice mani fredde e cuore caldo. Ma professor Barbanti, sulle gambe non saprei, qua meno male che ce l'hai. Professore. Ma chiederei ad Andrea se ha avuto, se è ingrassato o dimagrito negli ultimi tempi, perché c'è un nervetto che si chiama nervo femoro-cutaneo laterale della coscia che passa come una ghigliottina sotto il legamento inguinale. Se un ingrasso dimagrisce, questo nervetto che innerva la superficie laterale della coscia fa le bizze. Quindi direi roba non da pensione, anche perché a 45 anni tanto ancora gli manca. Voglia. Andrea? Dimagrito? No, ho avuto sbalzi di peso particolari, sono abbastanza costante, sono un magro, sono 1,80 m per 75 kg, costante, per cui l'unica cosa che mi fa venire in mente con questo nervo è che ho un passato di fratture vertebrali e quindi una schiena un po' così. Un po' malandata. Un po' malandata, ma niente. Beh, allora se la schiena è da pensione, un esame che è un po' il siero della verità, che è l'elettromiografia, un'interrogazione del muscolo per capire cosa gli portano i nervi, è sicuramente un qualcosa di utile. Allora, abbiamo anche un messaggio di Adriana per il professor Barbanti. Adriana ci scrive così: ho 53 anni, virgola, sono anche in menopausa. La memoria a breve termine comincia a fare fatica. Quale integratore consigliabile? Grazie di tutto, Adriana. Professore. Beh, se noi riusciamo con gli integratori a risolvere il problema della memoria, abbiamo fatto un passo avanti. Direi che un pochino tutto ciò che noi mangiamo contiene il sufficiente per la nostra memoria. Adriana deve ricordare che i recettori per gli estrogeni posti sul cervello hanno una funzione eccitante sul cervello e quindi il suo cervello si sta abituando, e ci vorrà qualche tempo, a essere forse meno pronto in alcune funzioni. Così come c'è la cosiddetta crisi puberale, anni un po' difficili in epoca adolescenziale, ci può essere una crisi menopausale. Meno estrogeno sul cervello lo tiene forse, dicevamo, meno attivo nelle funzioni mnemoniche. Io eviterei gli integratori, anche perché spesso sono solo dei brodi caldi, e aspetterei che si stabilizzi. La menopausa non è un giorno, è un periodo della vita. E allora continuiamo ancora con le nostre telefonate, 800 24 00 24. Sto anche scorrendo nel frattempo gli sms, professor Brambilla, le devo dire che ci sono molti ascoltatori che giustamente tornano sulla questione che abbiamo sollevato prima, le difficoltà economiche, e non si ha proprio la testa di pensare alla previdenza complementare, pur essendo condivisibile la posizione che ci ha espresso prima. Molti stanno, anche per affrontare questo momento psicologicamente difficile, stanno ritornando a risparmiare, però non pensano a farlo in forma appunto di previdenza. integrativa. C'è chi sta facendo i conti nella propria tasca e per esempio Francesco ci racconta che guadagna circa 1700 euro al mese, uno stipendio peraltro di tutto rispetto, con cui dobbiamo vivere in tre. Ascoltandovi, per poter dare un senso ad una pensione integrativa dovrei versare circa 300 euro al mese, quindi avrà un'età, insomma, immagino così tra 45 e 50 anni, così ho pensato da sola. E quindi lui dice: come faccio a farlo? Dobbiamo ricordare però che c'è tutto il trattamento di fine rapporto che può andare a finire in uno strumento di previdenza complementare, quindi qualche volta non è che materialmente dallo stipendio si debbano sottrarre questi soldi. Questo va fatto capire. Beh, intanto se lui mi parla di quello stipendio, mi parla di 300 euro al mese, sì. Sono 3.600 euro l'anno, comunque 1.400 li paga di sicuro perché li paga in tasse. Mm. Quindi se al posto che pagare 1.400 euro e basta di tasse arriva a 3.600, voglio dire, non è più 300 euro che deve versare, ma un po' meno di 200. Quindi questo già per il quadro fiscale. Poi probabilmente sarà un lavoratore dipendente, credo, quindi comunque sia questi 300 già diventerebbero 150, perché la metà ce li metterebbe il datore di lavoro. E poi probabilmente basterebbe il solo TFR, perché è il 6,91% della retribuzione, sì, per fare questa cifra, perché nei fatti è un tredicesimo, certo, quindi una mensilità, quindi 1700 ce li mette il TFR e arrivare a 3600 il resto ce lo mette però lo Stato. Insomma, l'osservazione dell'ascoltatore ci ha dato modo di commentare ancora una volta che molti passaggi di questa riforma, di cui lei è stato l'autore, non sono stati ancora pienamente colti, no, dalla collettività. Non sono stati capiti e soprattutto è comunque e diventa comunque una questione di consapevolezza. Certo. Cioè, se io mi cerco vede di rendermi conto... che lo yoga conto, inizia già, vede? No, ma questo ce l'avevamo già. Consapevolezza, lo yoga insegna. Questo lo sapevo già io, però prima ancora. Allora, dunque, che dobbiamo quasi salutare il cuore Denari Vitali, dobbiamo ricordare anche la giornata nazionale della previdenza, ci saranno colloqui per 1200 posizioni, qualcosa del genere, in 5 secondi Brambilla, poi lo mettiamo su Facebook. In 5 secondi noi avremo questa piazza in cui si incontrerà domanda e offerta di 45 aziende che mettono a disposizione circa 200 posti di lavoro veri, dei curriculum che verranno, ne verranno selezionati 1200, verranno contattati in questi 3 giorni di giornata e faranno un colloquio e probabilmente benissimo, 200 bello, persone avranno un lavoro. Completati bello, i racconti. Va sì, bene, salutiamo e ringraziamo il professor Barbanti che è rimasto con noi, grazie professore. Grazie. Grazie a voi. C'è chi a vuole il suo numero di telefono, lo sa nella nostra mail, professor Barbanti, anche oggi. Ma lui fa è andato strage al cuore e guarda caso sono sempre tutte donne. Ah, bene. Ecco, fate bene, perché è anche bello. A domani, buona giornata a tutti. Arrivederci.